Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci con un nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Gianluca, torniamo a parlare di una cosa che in qualche modo avevi già raccontato qualche tempo fa, perché fortunatamente certe situazioni si sbloccano proprio grazie all'intervento dell'Adico. Sì Francesco, guarda, fatalità è anche una situazione che si è sbloccata in tempo record, l'abbiamo raccontata un paio di settimane fa tramite la vostra trasmissione e siamo molto soddisfatti insomma che si sia chiuso tutto velocemente, positivamente. E la questione riguarda un esame saltato senza essere stato distretto, questo riguarda appunto un'impiegata veneziana che esattamente lo scorso febbraio avrebbe dovuto appunto fare una risonanza magnetica e non è andata quella risonanza magnetica che era stata almeno teoricamente prenotata dall'ULS, e a lei non risulta neanche che sia arrivata questa chiamata dell'ULS per la prenotazione. In ogni caso lei non è andata, non l'ha disdetta, ma per dei gravi motivi personali. Infatti proprio in quel periodo in cui avrebbe dovuto fare l'esame, che era a febbraio, cioè tra gennaio e febbraio, purtroppo sua madre si è ammalata gravemente ed è deceduta. A quel punto, dopo alcuni mesi, l'ULS, secondo una legge regionale del 2016, ha inviato a casa della donna che ha saltato l'esame un sostanzioso pagamento di 702 euro. In pratica, come prevede la legge regionale, questo è stato l'ULS ha seguito quello che prevede appunto la regione, quando non si disdice un appuntamento, quindi non ci si presenta a una visita era stata prenotata, questa visita viene addebitata in modo totale secondo quello che sarebbe il costo naturale di questi tipi di esami. Quindi in questo caso la risonanza sarebbe costata 700 euro e la donna appunto sono stati chiesti esattamente 702 euro. Ovviamente questa signora si è rivolta a noi disperata spiegandoci che lei quell'esame l'ha saltato proprio perché in primo luogo non le risultava che le fosse stato prenotato, però ha ammesso che forse l'ULS è anche chiamata per prenotarlo, ma lei in quel periodo aveva veramente la testa da un'altra parte, infatti aveva la madre gravemente malata e poi è deceduta. Dopo il nostro intervento, l'ULS, devo dire molto correttamente, ha chiamato la signora, ha chiesto la documentazione necessaria per verificare appunto quanto detto, cioè il fatto che la madre fosse malata e dopo anche deceduta, e proprio in questi giorni l'ULS, dopo aver valutato la documentazione, ha risposto anzi alla signora, devo dire anche in modo molto elegante, appunto dicendo che la pratica si poteva definire chiusa, nulla era dovuto a livello di pagamento, e l'ULS anche diciamo con una certa sensibilità ha spiegato nella lettera inviata a questa donna che comprende lo stato d'animo in cui si è venuta a trovare in quel momento e quindi va a cancellare questi 702 euro che, diciamolo Francesco, in generale è comunque una cifra davvero esagerata. Noi a suo tempo, quando abbiamo raccontato la storia, pur capendo la necessità di combattere le liste d'attesa, le lunghe liste d'attesa, riteniamo un po' esagerato comunque andare a chiedere queste cifre per chi non disdice un esame, non si presenta a un esame o a una visita. Certo. Noi riteniamo che insomma il semplice pagamento del ticket possa essere anche più che sufficiente. Sì, anche perché obiettivamente l'esame non è stato fatto. Cosa peggiore sarebbe fare un esame di questo tipo e non andarsi mai a prendere, a ritirare l'esito. E allora quello potrebbe, come dire, far girare un pochettino le scatole, ecco. In questo caso l'esame non è stato fatto, ha influito negativamente sulle tempistiche, ma non è costato in realtà fisicamente, perché non è stato proprio effettuato. Effettivamente non c'è stato nessun costo appunto da parte dell'ULS. È chiaro che la legge è una legge comunque utile per certi aspetti, nel senso che vuole scongiurare il più possibile le situazioni in cui le persone saltano gli esami senza avvertire, perché chiaramente questo fa sì che un'altra persona che doveva fare quell'esame ma non l'ha potuto fare perché c'era troppa gente, avrebbe potuto farlo in quel giorno e invece non l'ha fatto. Però ecco, far pagare cifre del genere è esagerato a nostro giudizio. È giusto comunque che le persone che non vanno a un esame prenotato paghino qualcosa, però ecco, questa cifra oggettivamente ti ha lasciato sconvolti anche a noi, e vediamo se qualcosa cambierà nella legge regionale. Intanto siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto in questo caso. Certo, ricordiamo sempre che gli uffici dell'Adico sono sempre aperti, forse a Ferragosto, martedì prossimo, faremo pausa. Sarà l'unico giorno, ecco. Saremo aperti anche il lunedì 14. Benissimo, comunichiamo. Ecco, ricordiamo che c'è il sito dove trovate poi i contatti, i numeri di telefono, la via e gli indirizzi vari, che è www.associazionedifesaconsumatori.it. Allora noi ci sentiamo, caro Gianluca, per l'appuntamento di venerdì prossimo, e poi martedì prossimo pausa. Va bene, grazie, grazie Gianluca, alla prossima. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.